marescialli, più sorelle principesse, tre regine sei contesse. E ti consoli romani e di principi sovrani, non si possa nulla fare. Ma aspetta, vai vedete, signor mio, non li vedete, non li vedete. Scipione, Marco Aurelio, Marco Agrippa, Lucio Scevero, Ecatone, e quei due che vanno a spalla, con Tiberio e Corrattaglia, con rispetto salutatevi, sprofondatevi, infidatevi, a ciascun di qua di là. E con nome con Scipione, salutatevi, Marco Aurelio, Marco Agrippa, sprofondatevi, Scevola e Cattone, infidatevi, e quei due che vanno a spalla, con Tiberio e Carrapalla, con rispetto salutatevi, sprofondatevi, infidatevi, a ciascun di qua di là, a ciascun di qua di là, a ciascun di qua di là. Inchinatevi a ciascun di qua di là, inchinatevi.